1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:20 minuti, cari ascoltatori, forza, forza, schema Allegri inserito, dai, dai, dai! Razza di debosciati che non siete altro, c'è da svegliarsi, da andare a lavorare, se siete in ritardo, forza, forza! E intanto ascoltate Radio 24, la rassegna stampa, e vi ricordo che oggi parleremo di quello che è successo a Prato, le polemiche del giorno dopo, le polemiche per i mancati controlli, le polemiche anche per la procura che dice il Far West, le polemiche anche perché, come scrive oggi Avvenire, tutto è successo sotto gli occhi nostri e tutti lo sanno. E regna l'indifferenza, in questa come in altri casi in Italia. Ne parliamo alle 8:15, avremo Alberto Forchielli, nostra conoscenza, nostro amico che è un profondo conoscitore della Cina, e avremo anche il segretario della CGIL di Prato, Alessandro Fabrizi, ospiti alle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali. Questo martedì 3 dicembre sono variegate le aperture dei quotidiani. Il Sole 24 Ore apre con questo titolo: ricometro stretta su casa e patrimoni, più controlli contro i finti poveri. E ci sono stati dei casi di recente anche che hanno preso le prime pagine dei giornali. Repubblica mette invece in prima pagina un'intervista al commissario europeo Olli Rehn. Debito, l'Unione Europea accusa l'Italia, Rehn, obiettivi non rispettati. Ma Letta dice la ripresa è a portata di mano. Poi la situazione politica, Corriere della Sera, Napolitano chiede un programma, Letta in aula l'11 dicembre per la fiducia. La Stampa, la corsa a ostacoli di Letta, il giornale Napolitano fa lo gnorri, è una verifica farsa, mentre il Messaggero mette ancora l'IMU, incredibilmente ancora l'IMU può conquistare alcune prime pagine dei giornali. IMU, il piano per i redditi bassi o il secolo XIX, IMU, ultimo assalto nel caos, mentre Libero sintetizza la vicenda IMU prendendosela con Saccomanni, incapace, mandatelo a casa. Mentre la vicenda di Prato è sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, 4 miliardi spediti in Cina, l'oro degli schiavisti di Prato. L'Unità invece, la vergogna dei senza nome. Il Manifesto mette una foto terribile, il rogo, tutte le cose accatastate, recuperate dall'incendio, con il titolo Made in Italy. Mentre Avvenire, Prato, verità che brucia. Questo è il titolo di prima pagina, che gioca anche in maniera abbastanza dura su questo rogo. Allora, però, voglio iniziare con una chicca che Sergio Rizzo ci regala dal Corriere della Sera. L'invito solito è quello di tenere strette le mani sul volante se siete alla guida, per la rabbia. Ma canalizzatela, interiorizzatela e cercate di pensare ad altro. Succede in Italia, nella Sicilia dei dirigenti, c'è chi guida solo se stesso. Pensate che pacchia essere dirigenti di se stessi. Succede in Sicilia. Sergio Rizzo, prima pagina del Corriere della Sera. Per quanto il fatto possa risultare incredibile, c'è qualcosa che lascia attoniti ancor più del numero. Già di per sé, come viene sempre ricordato, è spaventoso. Sbigottisce che uno dei 1776 dirigenti della regione Sicilia, numero paragonabile alla somma di tutti i papaveri di tutte le 15 regioni a statuto ordinario, diriga soltanto se stesso. Si trova nel paradiso di Pantelleria, è l'unico dipendente del parco archeologico, dirigente con le mostrine sul petto. Al pari del suo collega di un altro parco archeologico, quello di Morgantina, idem alla sezione operativa di assistenza tecnica dell'assessorato all'agricoltura, ufficio di Buseto Palazzolo. Anche questi hanno il loro onesto, per quanto piccolo, contributo ad alzare la media, perché con 17.531 dipendenti a tempo indeterminato, compresi appunto i 1.776 dirigenti, la regione Sicilia è come un esercito con meno di 9 soldati semplici per ogni ufficiale, un rapporto abnorme. come dimostra la media di un dirigente ogni 19 dipendenti che si registra nel complesso di tutte le regioni a statuto speciale, nessuna delle quali è mai stata particolarmente tirchia nella distribuzione dei galloni. Ma nella relazione sul personale messa a punto dagli uffici di Palazzo dei Normanni, il sito internet Live Sicilia ha scoperto decine e decine di altre perle. Per esempio, il numero di dipendenti regionali di Stanza Palermo sono 7.647. Ripetiamo questo dato: 7.647 i dipendenti regionali di Stanza a Palermo, è il doppio degli impiegati di tutta la regione Lombardia. E ancora, che dire dell'affollamento dei musei? Affollamento ovviamente non di visitatori, scrive Rizzo, ma di custodi e impiegati. Al Pirandello di Agrigento ce ne sono 66, ce ne sono 68 al Pietro Griffo, mentre il Museo Alessi di Enna si accontenta di 55 persone, esattamente come il Piepoli di Enna. Numeri che ovviamente si devono aggiungere alle 244 buste paga del Dipartimento dei Beni Culturali. Il titolo di questo articolo, per mettervi di buon umore: Sicilia, il dirigente solo in ufficio si dà gli ordini. Dirige solo se stesso. Come detto ieri, oggi è un giorno importante per la legge elettorale. Voglio sorvolare sui titoli tipo del Messaggero: riforma elettorale. Vi ricordo che siamo nella 31esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nel pieno, quasi nel cuore. Riforma elettorale, sfuma il blitz in Senato. Accidenti. Tra l'altro, con un'intervista al ministro Quagliariello, che dice sul Messaggero, intervistato da Carlo Fusi a pagina 5, i toni sono perentori: intesa subito dopo l'8 o il governo può andare a casa. Questo è il titolo. Toni perentori: riforma elettorale subito oppure a casa. Sorvolo anche sul tema delle province. Il Quotidiano Nazionale, siamo nella 31esima settimana di abolizione delle province, decisiva. L'addio alle province si allontana. Ma come? Il Quotidiano Nazionale, pagina 3. E Delrio, cioè il ministro, vede nero. Bisogna mantenere i patti. In questo Parlamento è stata fatta la promessa di una riforma istituzionale profonda. Basta con il benaltrismo. Anche qui toni perentori. Basta con il benaltrismo. Ma dicevamo, oggi è una giornata importante per il Porcellum, perché si apre questa udienza alla Corte Costituzionale in cui si deve decidere sull'eventuale incostituzionalità, soprattutto del premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale. E c'è il quotidiano La Stampa che mette il giorno del giudizio per il Porcellum a pagina 5 con un'intervista ad Aldo Bozzi. Aldo Bozzi, che sta conducendo una battaglia legale, è colui che è riuscito a fare ricorso presso un giudice che poi ha interpellato la Corte Costituzionale, insomma ha dato il via a tutto. 80 anni, mi ero veramente rotto le scatole, dice a Paolo Colonnello, così mi sono detto: perché non provarci? Ed eccolo qui, uno che ha un carattere spigoloso, soprattutto dice: c'ho 80 anni, sono pensionato e voglio tornare a vivere in una democrazia. La domanda: si rende conto, lei sta riuscendo a fare una cosa che i partiti non hanno mai voluto fare? Certo, perché faceva comodo, risponde l'avvocato Aldo Bozzi, solo che con la legge attuale il cittadino subisce e io non volevo più subire. Non mi sento affatto un eroe, faccio l'avvocato e se una cosa è giusta va fatta, chiunque avrebbe potuto farla. Però l'ha fatta lei, chiede Paolo Colonnello. Cosa cambia? Io o un altro è lo stesso. Il problema è che questa legge contiene un meccanismo che crea l'ingovernabilità, soprattutto al Senato. Due i problemi: la lista bloccata e l'enorme premio di maggioranza che stravolge il concetto di rappresentanza. Oggi non siamo in democrazia. A me non interessa chi comanda, mi interessa tornare a essere un paese democratico con una legge elettorale che consenta ai cittadini di scegliere i loro parlamentari, ci restituisca un Parlamento di eletti e non di nominati. Insomma, questo è l'avvocato ottantenne Aldo Bozzi, tra l'altro nipote d'arte, nipote dell'omonimo Aldo Bozzi, politico, membro della Costituente, che parla alla Stampa e racconta perché ha fatto questo ricorso che oggi approda in Corte Costituzionale contro il Porcellum. Andiamo in pubblicità, poi ripartiamo dalla politica, dalle tante, tanti articoli e inchieste sulla vicenda tragedia di Prato e altro. 24 mattino. Siamo qui alle 7:34 minuti, allora io, come detto, alle 8:15 ci occuperemo di quella che è la tragedia di Prato. Sono i tanti titoli che trovate in prima pagina dei giornali, tanti commenti, tante le analisi, tanta la cronaca, tante anche le parole retoriche che si usano in queste occasioni. Intanto vi segnalo gli articoli di Silvia Pieraccini sul Sole 24 Ore, a pagina 6 e 7. Beh, già il titolo è inquietante: proprietà e gestore fantasma, cioè chi è il proprietario di questa azienda o microimpresa nella quale sono morte 7 persone, ricordiamo, in una ha cercato anche di fuggire dalla finestra, ha trovato le grate. Dopo l'incendio, scrive Pieraccini, nel capannone dormitorio cinese, 7 morti, 2 feriti gravi, il caso Prato approda a Roma, un risalto mai visto prima. È il presidente della Repubblica Napolitano che scrive al presidente della Regione Toscana Rossi per sollecitare un insieme di interventi concertati a livello nazionale, regionale, locale, per far emergere da una condizione di insostenibile illegalità e sfruttamento realtà produttive e occupazionali che possono contribuire allo sviluppo economico e italiano. Questo è il virgolettato della lettera di Napolitano. A Prato, un distretto etnico dell'abbigliamento low cost da 2 miliardi di euro fondato sull'illegalità economica e lavorativa, c'è un 50% di sommerso, sostanzialmente parallelo allo storico distretto tessile. Così dice e scrive il Presidente della Repubblica, dovranno avvenire questi controlli senza porre irrimediabilmente in crisi le aziende. Come detto, anche il titolo di Avvenire a pagina 7 è emblematico: cinesi morti, PM dicono qui è il Far West, il Far West. Così dice, ed è lo sfogo del procuratore capo della Repubblica di Prato, Piero Toni, il giorno dopo la tragedia di Via Toscana, dove hanno perso la vita 7 operai cinesi. L'atto d'accusa è pesante: qui è il Far West, noi di fronte a tutto ciò ci sentiamo impotenti. In 4 anni abbiamo sequestrato 600 capannoni, eppure a cosa è servito? Lottiamo con organici studiati per la Prato di 40 anni fa. Nonostante gli sforzi, i controlli sono insufficienti. Così il procuratore di Prato. Insomma, con i controlli non si riesce. Il Secolo XIX mette invece l'accento sui il muro di silenzio, come detto anche sempre dal procuratore capo. Non se ne viene a capo a questa situazione, anche perché c'è scarsa collaborazione. Fa un po' sorridere la promessa di collaborazione dell'ambasciata cinese, che dice: collaboreremo con le autorità per aiutare la nostra popolazione all'estero a prevenire incidenti. Ma sembrano classiche frasi nelle quali poi si maschera una retorica del giorno dopo, che poi non è supportata da fatti. Ci sono le interviste: il ministro al lavoro Enrico Giovannini viene intervistato da Alessandro Barbera sulla Stampa, pagina 11, dice: il problema non sono solo i cinesi, Napoli è più a rischio di Prato. Così Giovannini. Prato è sotto osservazione dal 2010, da quando è stato firmato un patto di prefettura, comune, provincia, regione, che coinvolge i soggetti impegnati nei controlli degli stabilimenti, dunque polizia, ASL, INPS, Ministero del Lavoro, Agenzia delle Entrate. Ma non dimentichiamo che l'ultima tragedia del genere a Barletta coinvolse una piccola attività artigianale italiana. Detto ciò, è evidente che bisogna fare di più per contrastare l'illegalità. Ma, dice Giovannini, sul numero di infrazioni registrate, la prima provincia per irregolarità è Napoli, Prato è al 10° posto. Quindi, a dire, insomma, il ministro del lavoro, non è proprio la situazione per forza peggiore quella di Prato, anche se ovviamente adesso tutti parlano della città toscana per quella tragedia che è successa. Anche Susanna Camusso, e qui il ruolo del sindacato viene chiamato in causa, leader della CGIL, viene intervistata da Rinaldo Gianola sull'Unità ed è molto chiara già nel titolo: quegli operai morti sono una sconfitta del sindacato, dice Susanna Camusso. I morti sono tutti uguali, italiani, cinesi, clandestini, regolari. Ogni volta che c'è un incidente, ogni volta che si muore per il lavoro, per noi è una sconfitta. Quello che più mi colpisce in questo dramma umano è il fatto che avviene in una città italiana di lavoro e industria, un distretto famoso nel mondo che oggi si presenta con le fabbriche dormitorio, le sbarre alle finestre, il lavoro ridotto alle condizioni opprimenti di un carcere. In quelle condizioni, come lavorano e come muoiono i lavoratori cinesi, siamo alla schiavitù vera e propria. Così Susanna Camusso sull'Unità. Sempre Silvia Pieraccini racconta, tra l'altro, nell'articolo a pagina 7 del Sole, dal titolo «Meno di 5 euro per una giacca». Ecco, questo è il senso della competizione sui prezzi all'estremo. Meno di 5 euro viene pagata questa giacca, che poi finisce sul mercato, anche mercato italiano. Su 2 miliardi di giro d'affari, uno è illegale, il 50% del sommerso, per l'appunto. Questa è la stima che viene fatta, ma sono stime, perché ovviamente la situazione non è assolutamente delle più facili. Invece, per quel che riguarda la politica, c'è da dire che la politica fa registrare una data importante, l'11 dicembre, importante, nel senso che per chi è appassionato di politica, dopo l'elezione molto presumibilmente di Matteo Renzi, segretario del PD, questa domenica, l'11 ci sarà il passaggio parlamentare richiesto anche da Forza Italia, e Napolitano ha detto sì, ci sarà. L'11 dicembre Letta si dovrà presentare in Parlamento per quella che è una sorta di fiducia. Si riparte da una nuova agenda con giustizia e immigrazione, questo è il titolo del retroscena Marzio Breda, pagina 3 del Corriere della Sera. Al Quirinale c'è l'idea di un patto proiettato su 12-18 mesi e le valutazioni sui dossier da inserire. L'11 dicembre è la data in cui Enrico Letta si deve presentare per una verifica di governo, però non ci dovrebbe essere un rimpasto, come chiede invece Forza Italia, come chiede, pare, anche Scelta Civica con Monti, come chiedono alcuni partiti, ma niente dimissioni né rimpasto. Questo è il titolo del retroscena del Messaggero a pagina 3, firma Alberto Gentili. Fare presto per blindare l'esecutivo. Enrico Letta spera che, svolgendo la verifica subito dopo l'elezione e quindi del popolo del PD chiamato a votare, il rischio spallata venga disinnescato. La politica è un po' tutta qui. Tra l'altro, nel retroscena c'è anche Letta che dice nessun rimpasto. Il ministro Lupia smentisce già l'addio. Anche se, racconta Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, pagina 5, Democratici e Monti chiedono appunto più spazio. In qualche modo c'è ancora Berlusconi invece, due retroscena sempre, qua purtroppo la politica si alimenta di questo, dei retroscena. Secondo Repubblica, firma Carmelo Lo Papa, pagina 9, la tentazione di Berlusconi è candidarsi in Ungheria. Candidarmi per le europee a Budapest, andare lì, chiedere la residenza, anche perché c'è l'approdo dell'amico Viktor Orban, ultranazionalista di destra, che vanta un ottimo rapporto con Berlusconi, e scrive Repubblica, è pure milanista, e quindi potrebbe agevolare. Mentre Libero fa sapere che, sempre in una nazione che finisce per IA, ma la Bulgaria potrebbe essere l'approdo di Berlusconi per tentare l'elezione all'Europarlamento. Silvio vede i sondaggi e pensa a Sofia. Le rilevazioni danno Forza Italia in crescita e dunque si vuole candidare forse in Bulgaria, così Salvatore Dama sul Libero. Bulgaria o Ungheria, chi lo sa, rimaniamo con questo mistero. Intanto saluto Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua. Allora, chiedendo se in Bulgaria o in Ungheria, poi come si regola con l'IMU, la mini-IMU. Non lo so, si pagherà l'IMU in Bulgaria. Di certo, se si paga, secondo me in Bulgaria lo hanno deciso e quello è. Tanto dato, almeno una cosa si decide e si fa. Potrebbe essere. Senti, invece parliamo di ricometro, perché è il titolo del Sole 24 Ore, non vogliamo inquietare nessuno, ma informare di che si tratta. Il ricometro che è il nome, come dire, di battaglia dell'ISEE, questo è il nome all'anagrafe, cioè quell'indicatore della situazione economica equivalente, serve appesare i tuoi lauti, conti correnti, tutte le tue proprietà immobiliari, sì, e anche tutte numerosi, quelle della famiglia. Anche. Lauti e numerosi conti correnti. Esatto, sì. Esatto. E vedere così se tu puoi aver diritto o meno delle prestazioni agevolate. Magari puoi mandare un figlio all'università e ottenere una retta più bassa, sì, ma se, come capita a te, caro Alessandro, sei proprietario di molte case, hai molti conti correnti, molti investimenti, bene, l'ISEE, il tuo ISEE, il tuo ricometro, insomma, mi impedisce di farlo. Segnerà, no, un indice molto elevato. Ma il tema è molto delicato, perché le inchieste sono recenti, spesso, appunto. Sì, anche perché molto spesso, diciamo, c'è la tendenza a dimenticarsi di segnalare alcune cose in questo indicatore. Dimenticarsi è ironico, naturalmente. Allora, adesso il governo ha varato una serie di correzioni, sta varando una serie di correzioni, correzioni che sono un po' complesse, le ha dovuto passare per una serie di vagli, discussioni con le regioni e quant'altro. Siamo arrivati in fondo, lo spieghiamo a pagina 2, pagina 3. In realtà peseranno un po' di più le proprietà immobiliari, chi è in affitto però invece potrà avere un ISEE più favorevole. No, ma tra l'altro, Mauro, è un modo per stroncare un fenomeno, anche le inchieste di recente di falsi poveri che avevano agevolazione all'Università di Roma. È una vera vergogna, che a me fa sempre dire che in realtà non siamo poi molto diversi quando ci scagliamo con la nostra classe dirigente. Forse dobbiamo fare una riflessione anche su che tipo di popolo siamo. Comunque, andiamo avanti, sì, considerazione questo, mia. Sì, questo che dici è molto vero, perché diciamo che l'ISEE forse potrebbe anche essere preso, il ricometro, come vogliamo chiamarlo, come misuratore del senso civico. Se fosse così, diciamo che il nostro livello di senso civico non sembra altissimo, perché lo spieghiamo oggi, molti si dimenticano di dire che hanno un conto corrente, ad esempio quando compilano l'ISEE, magari, ecco, c'è proprio della sbadataggine, magari invece no. No. Ti segnalo una bella inchiesta, comincia Luca Orlando, bella ma amara, il credito è impossibile, si sono dimezzati dal 2008 i finanziamenti alle imprese, non c'è credito per crescere, insomma, è molto, molto interessante, lo riferiamo, spieghiamo bene a parte di imprese e territori. Sì. E poi invece per i nostri amici fiscalisti, sai, qui Radio Norme. Radio Londra, la Radio Londra, non, attenzione, allora, messaggio di Mauro Meazza per i fiscalisti. Ecco, attenzione. Tares 16 dicembre solo con F24. Oh, perfetto, anche con le coordinate abbiamo dato. Solo con F24, che non è purtroppo una battaglia navale, ma è una cosa da pagare entro il 16 dicembre, ma solo con F24. Enorme tributi, tutti particolari, enorme tributi, come sempre. Grazie Mauro, allora ci troviamo domani, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi le altre notizie dei giornali. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Eccoci, eccoci. Tra l'altro, a proposito di economia, Repubblica mette in prima pagina l'intervista esclusiva con il commissario europeo Olli Rehn, commissario europeo che bacchetta l'Italia, debito, l'Unione Europea accusa l'Italia, questo è il titolo di prima pagina di Repubblica. Pagina 3, l'intervista di Andrea Bonanni, l'accusa di Rehn: non state rispettando l'obiettivo, ora privatizzazioni e spending review. Per quanto riguarda il deficit, dice Olli Rehn, l'Italia è in linea, anche se di poco, col criterio del 3%. Ma l'Italia deve rispettare un certo ritmo di riduzione del debito e non lo sta rispettando. Per farlo, lo sforzo di aggiustamento strutturale avrebbe dovuto essere pari a mezzo punto del PIL, invece solo dello 0,1%. È per questo motivo che l'Italia non ha margini di manovra e non potrà invocare la clausola di flessibilità per gli investimenti. Io devo essere scettico per natura, le privatizzazioni daranno un piccolo contributo a migliorare l'efficienza del sistema economico, ma ci vuole anche la spending review, l'aggiustamento strutturale non basta. Così è Olli Rehn, dunque, su Repubblica. Chissà se questo alimenterà un sentimento antieuropeo che già c'è ed è diffuso. Avete sentito Beppe Grillo al Vaffadei, ma sarà anche qualcuno giura la campagna di Silvio Berlusconi per le europee in targa, in salsa antieuropea. Tanto che oggi sia il Fatto Quotidiano che Libero dedicano due pagine a questa onda montante. Siamo tutti antieuropei, vi segnalo Stefano Feltri a pagina 4. 4 del Fatto Quotidiano, con un'intervista anche all'economista Giacomo Vaciago, intervistato da Carlo Di Foggia, che dice: questo euro è indifendibile, così Libero, attacco all'euro. Grillo ha ragione, ma i vaffa non bastano, è l'analisi di Gianluigi Paragone in prima pagina di Libero. Tra l'altro, che la situazione politica sia un po' così così lo racconta anche lo stesso Libero, un articolo a pagina 4. La polemica è per la mancata presenza di Enrico Letta alla prima della Scala, tradizionale apertura della stagione della Scala per Sant'Ambrogio, il patrono di Milano, e dunque il 7 di dicembre, tra 4 giorni, paura di fischi, Letta salta la Scala. Massimo Costa racconta che il premier ha già fatto sapere che per motivi personali, impegni personali, non può intervenire alla prima della Scala. E molti però, racconta Libero, vedono nel diniego di Letta la scelta di dribblare potenziali contestazioni. Il presidente del Consiglio Comunale di Milano, soprattutto dopo la polemica Comuni Governo sull'IMU, aveva detto: meglio che non si faccia vedere. Vabbè, il clima è un po' questo. Segnalo solo di notizie di cronaca: Repubblica, Bologna, l'Ateneo riconosce le nozze gay del professore. È stata data, racconta Rosario di Raimondo, un congedo matrimoniale, ed è la prima volta da parte di una istituzione pubblica a un ricercatore dell'Università di Bologna. 15 giorni di equivalente di congedo matrimoniale, però questa persona sta con il compagno uomo, quindi una coppia omosessuale. Bologna, l'Ateneo riconosce le nozze gay del prof. Congedo matrimoniale a un ricercatore sposato all'estero è il primo caso in un ente pubblico. E la storia la trovate su Repubblica. L'altra notizia che vi racconto di cronaca dal Messaggero, pagina 14: il sindaco confisca le elemosine perché dice quei mendicanti sono aggressivi. Succede a Bressanone, la linea dura del sindaco del PD, anzi il vice sindaco Gian Lorenzo Pedron, intervistato, spiega: non abbiamo alcuna intenzione di fargli sceriffi, ma se i mendicanti sono molesti o aggressivi è giusto che la polizia municipale intervenga. Succede a Bressanone, lo racconta il Messaggero. Siamo alla chiusura, al momento del premio per l'articolo più inutile scovato sui giornali, e siamo sul Fatto Quotidiano a pagina 8, dove lo sapevo che Dudu avrebbe conquistato qualche giornale con l'intervista a Un Giorno da Pecora del veterinario di Dudu. Sapete che c'è una polemica, un animalista ha detto che l'ASL dovrebbe controllare perché a suo dire Dudu è trattato male, e allora è intervenuto il dottor Federico Coccia, veterinario di Dudu, che dice: non è depresso, vi rassicuro, le due persone di servizio sono in grado di fare una diagnosi. E poi c'è confusione, concitazione, le attenzioni giuste. Come cura il medico Dudu? Con una dieta equilibrata tra carboidrati, vitamine, proteine. Vi rendete conto? Il Fatto Quotidiano, la carta costa. Rendetevene conto, un articolo su Dudu e come sta e il suo veterinario. Vabbè, giornale radio, dai.